Canto primo de L'Orlando Furioso. Primi quattro canti di Ludovico Ariosto. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Personaggi ed interpreti dei quattro canti. Narratore letto da Pier. Rinaldo letto da Francesco Sardegna. Fantasma d'Argalia letta da Handmaid PSK. Sacripante letto da Casbeck. Angelica letto da Marzia Marianera. Il messaggero letto da Raquel Moraes. Spirito Valetto letto da Sonia. Il vento letto da Raquel Moraes. Pinnabello letto da Algipag. Melissa letto da Pretty Pape. Bradamante letto da Emanuela. Merlino letto da Handmaid PSK. Oste letto da Sonia. Brunello letto da Renzo Clerico. Atlante letto da Giulia Pulzetti. Monachi letto da Sasuket. Canto primo. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese io canto, che furo al tempo che passaro i mori d'Africa al mare, e in Francia noquer tanto, seguendo l'ire i giovenil furori, da Gramante lor re, che si die vanto di vendicar la morte di Troiano sopra re Carlo, imperator romano. Di Rodo Orlando, in un medesmo tratto, cosa non detta in prosa mai, né in rima, che per amor venne in furore e matto, d'uom che si saggio era stimato prima, se da colei che tal quasi m'ha fatto, che il poco ingegno ador mi dima, me ne sarà però tanto concesso, che mi basti a finir quanto ho promesso. Piacciavi generosa erculea prole, ornamento e splendor del secol nostro, Ippolito, a gradir questo che vuole e darvi sol può l'umil servo vostro. Quel ch'io vi debbo posso di parole pagare in parte d'opera d'inchiostro, né che poco io vi dia da imputar sono, che quanto io posso dar, tutto vi dono. Voi sentirete, fra i più degni eroi, che nominar con laude m'apparecchio, ricordar quel Rugger che fu di voi e dei vostri avi illustri il ceppo vecchio. L'alto valore e chiari gesti suoi vi farò udir, se voi mi date orecchio, e vostri alti pensier cedino un poco, sì che tra lor miei versi abbian loco. Orlando, che gran tempo innamorato fu della bella Angelica, e per lei in India, in Media, in Tartaria lasciato avea infiniti ed immortal trofei, imponente con essa era tornato, dove sotto i gran monti Pirenei, con la gente di Francia e della Magna, re Carlo era attendato alla campagna, per far al re Marsiglio e al re Agramante battersi ancor del folle ardir la guancia, d'aver condotto l'un d'Africa quante genti erano atte a portare spada e lancia, l'altro d'aver spinta la Spagna in ante a distruzione del bel regno di Francia. E così Orlando arrivò quivi a punto, ma tosto si pentì d'esservi giunto, che vi fu tolta la sua donna poi. Ecco il giudicio uman come spesso erra quella che dagli esperi ai liti e oi avea difesa con si lunga guerra, or tolta gli è fra tanti amici suoi, senza spada adoprar nella sua terra. Il savio imperator, che estinguer volse un grave incendio, fu che gliela tolse. Nata pochi dì innanzi era una gara tra il conte Orlando e il suo cugino Rinaldo, che entrambi avean per la bellezza rara d'amoroso disio l'animo caldo. Carlo, che non avea tal lite cara che gli rendea l'aiuto lor mensaldo, questa donzella, che la causa n'era, tolse e die in mano al duca di Bavera, in premio promettendola quel d'essi che in quel conflitto, in quella gran giornata, degli infideli più copia uccidessi e di sua man prestasse opera più grata. Contrari ai voti poi furo i successi, che in fuga andò la gente battezzata e con molti altri fu il duca prigione e restò abbandonato il padiglione, dove, poi che rimase la donzella, ch'esser dovea del vincitor mercede, innanzi al caso era salita in sella e quando bisognò le spalle diede, presaga che quel giorno esser rubella dovea fortuna la cristiana fede. Entrò in un bosco e nella stretta via rincontrò un cavalier ch'a pie venia. Indosso la corazza, l'elmo in testa, la spada al fianco e in braccio avea lo scudo, e più legger correa per la foresta ch'al pardio rosso il villan mezzo ignudo. Timida pastorella mai si presta, non volse piede innanzi a serpe crudo, come angelica tosto il freno torse, che del guerrier ch'a pie venia s'accorse. Era costui quel paladin gagliardo figliuol d'Amon, signor di Montalbano, a cui, pur dianzi, il suo destrier baiardo per strano caso uscito era di mano. Come la donna gli drizzò lo sguardo, riconobbe, quantunque di lontano, l'angelico sembiante e quel bel volto ch'all'amorosi reti il tenea involto. La donna il palafreno ha dietro volta e per la selva tutta briglia al caccia, né per la rara più che per la folta la più sicura e miglior via procaccia. Ma pallida, tremando e di sé tolta, lascia cura al destrier che la via faccia. Di su, di giù, nell'alta selva fiera tanto girò che venne a una riviera. Sulla riviera Ferrau trovosse, di sudor pieno e tutto polveroso. Dalla battaglia dianzi lo rimosse un gran disio di bere e di riposo. E poi, malgrado suo, quivi fermosse, perché, dell'acqua ingordo e frettoloso, l'elmo nel fiume si lasciò cadere, né l'avea potuto anco riavere. Quanto potea più forte, ne veniva gridando la donzella e spaventata. A quella voce salta in sulla riva il saracino e nel viso la guata, e la conosce subito ch'arriva, benché di timor pallida e turbata, e sian più dì che non udì novella che senza dubbio è l'angelica bella. E perché era cortese e n'avea forse non men de due cugini il petto caldo, l'aiuto che potea tutto le porse, pur come avesse l'elmo ardito e baldo. Trasse la spada e minacciando corse dove poco di lui temea Rinaldo. Più volte s'eran già non pur veduti, ma al paragon dell'arme conosciuti. Cominciar quivi una crudel battaglia, come a pie si trovar coi brandi ignudi, non che le piastre la minuta maglia, ma i colpi lor non reggerian gli incudi. Or, mentre l'un con l'altro si travaglia, bisogna al palafren che il passo studi, che quanto può menar delle calcagna, colei lo caccia al bosco e alla campagna. Poi che s'affaticar gran pezzo invano, i due guerrier per por l'un l'altro sotto, quando non meno era con l'arma in mano questo di quel, né quel di questo dotto, fu primiero il signor di Montalbano ch'al cavalier di Spagna fece motto, sì come quel ch'ha nel cuor tanto fuoco che tutto n'arde e non ritrova loco. Disse al pagan: me sol creduto avrai, eppur avrai te meco ancora offeso. Se questo avvien perché i fulgenti rai del nuovo sol t'abbino il petto acceso, di farmi qui tardar, che guadagno hai? Che quando ancor tu m'abbi morto preso, non però tua la bella donna fia, che mentre noi tardiam, se ne va via. Quanto fia meglio, amandola tu ancora, che tu le venga a traversar la strada, a ritenerla e farle far dimora prima che più lontana se ne vada. Come l'avremo in potestate allora di chi esser dessi provi con la spada? Non so altrimenti, dopo un lungo affanno, che possa riuscirci altro che danno. Al pagan la proposta non dispiacque, così fu differita la tenzone, e tal tregua tra lor subito nacque, si l'odio e l'ira va in oblivione, che il pagano, al partir dalle fresche acque, non lasciò a piedi il buon figliuol d'amone, con preghi in vita, ed al fin toglie in groppa, e per l'orme d'Angelica galoppa. O gran bontà dei cavalieri antichi! Eran rivali, eran di fe diversi, e si sentian degli aspri colpi iniqui per tutta la persona anco dolersi. Eppur, per selve oscure e calli obliqui, insieme van senza sospetto aversi. Da quattro sproni il destrir punto, arriva una strada in due si dipartiva. E come quei che non sapean se l'una o l'altra via facesse la donzella, però che senza differenza alcuna parie in amendue l'orma novella, si messero ad arbitrio di fortuna, Rinaldo a questa, il Saracino a quella. Pel bosco Ferraon molto s'avvolse, e ritrovosse al fine onde si tolse. Pur si ritrova ancor sulla rivera, là dove l'elmo gli cascò nell'onde, poiché la donna ritrovar non spera, per aver l'elmo che il fiume gli asconde, in quella parte onde caduto gli era discende nelle estreme umide sponde. Ma quello era sì fitto nella sabbia che molto avrà da far prima che l'abbia. Con un gran ramo d'albero rimondo, di che avea fatto una pertica lunga, tenta il fiume e ricerca sino al fondo, né loco lascia ove non batte punga, mentre con la maggior stizza del mondo tanto l'indugio suo qui vi prolunga, vede di mezzo il fiume un cavaliero insino al petto uscir d'aspetto fiero. Era fuor che la testa tutto armato ed avea un elmo nella destra mano, avea il medesimo elmo che cercato da Ferraù fu lungamente invano. A Ferraù parlò come adirato, e disse: «Ah, mancator di fe, marrano! Perché di lasciar l'elmo anche t'aggrevi, che render già gran tempo mi dovevi? Ricordati, pagan, quando uccidesti d'Angelica il fratel, che son quell'io, dietro ad altrarme, tu mi promettesti gittar fra pochi dì l'elmo nel rio. Or se fortuna, quel che non volesti far tu, pone ad effetto il voler mio, non ti turbare, e se turbarti dei, turbati, che di fe mancato sei. Ma se desir porrai d'un elmo fino, trovano un altro, ed abbil con più onore. Un tal ne porta Orlando Paladino, un tal Rinaldo, e forse anco migliore. L'un fu dal monte e l'altro di Mambrino. Acquista un di quei due col tuo valore, e questo che hai già di lasciarmi detto, farai bene a lasciarmi con effetto. All'apparir che fece all'improvviso dell'acqua l'ombra, ogni pelo arricciossi e scolorossi al saracino il viso, la voce che era per uscir fermossi. Udendo poi d'Argalia, ucciso qui vi avea già, che Argalia non mossi, la rotta fede così improverarse, di scorno e d'ira dentro e di fuor arse. Né tempo avendo a pensar altra scusa, e conoscendo ben che il ver gli disse, restò senza risposta a bocca chiusa, ma la vergogna al cor si gli trafisse, che giurò per la vita di Lanfusa non voler mai ch'altro ermo lo coprisse, se non quel buono che già in Aspramonte trasse dal capo Orlando al fiero Almonte. E servò meglio questo giuramento che non avea quell'altro fatto prima. Quindi si parte tanto malcontento che molti giorni poi si rode e lima, sol di cercare il paladino intento, di qua, di là, dove trovarlo stima. Altra avventura al buon Rinaldo accade, che da costui tenea diverse strade. Non molto va Rinaldo, che si vede saltare innanzi il suo destier feroce. Ferma, baiardo mio, de ferma il piede, che l'esser senza te troppo mi nuoce. Per questo il destier sordo a lui non riede, anzi più se ne va sempre veloce. Segue Rinaldo, e d'ira si distrugge, ma seguitiamo Angelica che fugge. Fugge tra selve spaventose scure, per lochi inabitati, ermi e selvaggi, il mover delle fronde di verzure che di cerri sentia dolmi e di faggi, fatto le avea con subite paure trovar di qua di là strani viaggi. Ch'ad ogni ombra veduta o in monte o in valle, temea Rinaldo aver sempre alle spalle. Qual pargoletta, o damma, o capriuola, che tra le fronde del natio boschetto alla madre veduta abbia la gola stringer dal pardo, o aprirle il fianco o il petto, di selva in selva dal crudel s'invola, e di paura trema e di sospetto, ad ogni sterpo che passando tocca, esser si crede all'empia fera in bocca. Quel dì e la notte a mezzo l'altro giorno s'andò aggirando, e non sapeva dove. Trovossi al fin in un boschetto, adorno, che lievemente la fresca aura muove. Due chiari rivi, mormorando intorno, sempre l'erbe vi fan tenere nuove, e rendea ad ascoltar dolce concento, rotto tra picciol sassi il correr lento. Quivi, parendo a lei d'esser sicura e lontana Rinaldo mille miglia, dalla via stanca e dalla stiva assura, di riposare alquanto si consiglia. Tra fiori smonta e lascia alla pastura andare il palafren senza la briglia. E quel va errando intorno alle chiare onde, che di fresca erba avean piene le sponde. Ecco, non lungi un bel cespuglio vede, di prun fioriti e di vermiglie rose, che delle liquide onde allo specchio siede, chiuso dal sol fra l'alte querce ombrose, così vuoto nel mezzo che concede fresca stanza fra l'ombre più nascose, e la foglia coi rami in modo è mista, che il sol non ventra, nonché minor vista. Dentro letto vi fan tenere erbette, che invitano a posar chi s'appresenta. La bella donna in mezzo a quel si mette, ivi si corca ed ivi s'addormenta. Ma non per lungo spazio così stette, che un calpestio le par che venir senta. Cheta si leva e appresso la riviera vede armato un cavalier giuntera. Se gli è amico o nemico non comprende, tema e speranza al dubbio cor le scuote, e di quella avventura al fine attende. Neppur d'un sol sospir l'aria percuote. Il cavaliero in riva al fiume scende, sopra un braccio a riposar le gote, e in un suo gran pensier tanto penetra che par cangiato in insensibil pietra. Pensoso, più d'un'ora a capo basso stette, signore, il cavalier dolente. Poi cominciò con suono afflitto e lasso a lamentarsi sì soavemente ch'avrebbe di pietà spezzato un sasso, una tigre crudel fatta clemente. Sospirante piangea, tal ch'un ruscello parean le guance e il petto un mongibello. Pensier, dicea, che il cor m'agghiacci ed ardi e causi il duol che sempre il rode e lima. Che debbo far, poich'io son giunto tardi e ch'altri accorre il frutto è andato prima? Appena avuto io no parole e sguardi, ed altri n'ha tutta la spoglia opima. Se non ne tocca a me frutto né fiore, perché affligger per lei mi vuò più il core? La verginella è simile alla rosa, che in bel giardin sulla nativa spina, mentre sola e sicura si riposa, né gregge né pastor se le avvicina. L'aura soave e l'alba rugiadosa, l'acqua, la terra al suo favor s'inchina. Giovani vaghi e donne innamorate amano averne e seni e tempi ornate. Ma non si tosto dal materno stelo rimossa viene e dal suo ceppo verde che quanto avea dagli uomini e dal cielo favor, grazia e bellezza tutto perde. La vergine che il fior di che più zelo che de begli occhi e della vita averde lascia altrui corre il pregio ch'avea inanti perde nel cor di tutti gli altri amanti. Si avvile agli altri, ed a quel solo amata, a cui di sé fece sì larga copia. Ah, fortuna crudel, fortuna ingrata, trionfan gli altri, e ne moro io di noppia. Dunque, esser può che non mi sia più grata, dunque io posso lasciar mia vita propria? Ah, piuttosto oggi manchino i dì miei, ch'io viva più s'amar non debbo lei. Se mi domanda alcun chi costui sia che versa sopra il rio lacrime tante, io dirò che gli erredi circa sia quel d'amor travagliato sacripante. Io dirò ancor che di sua pena ria sia prima e sola causa essere amante. È pur un degli amanti di costei e ben riconosciuto fu da lei. Appresso, ove il sol cade, per suo amore venuto era dal capo d'Oriente, che seppe in India con suo gran dolore come ella Orlando seguitò imponente. Poi seppe in Francia che l'imperatore sequestrata l'avea dall'altra gente, per darla l'un de duo che contra il moro più quel giorno aiutasse i gigli d'oro. Stato era in campo, e inteso avea di quella rotta crudel che dianzi ebbe recarlo. Cercò vestigio d'angelica bella, né potuto avea ancora ritrovarlo. Questa è dunque la trista e ria novella che d'amorosa doglia fa penarlo, affligger, lamentare e dir parole che di pietà potrian fermare il sole. Mentre costui così s'affligge e duole e fa degli occhi suoi tepida fonte, e dice queste molte altre parole che non mi par bisogno esser racconte, la venturosa sua fortuna vuole che l'orecchia d'angelica sian conte, e così quel ne viene un'ora a un punto che in mill'anni o mai più non è raggiunto. con molta attenzion la bella donna al pianto, alle parole, al modo attende di colui che in amarla non assonna, né questo è il primo dì che ella l'intende. Ma dura e fredda più d'una colonna, ad averne pietà non però scende, come colei ch'ha tutto il mondo a sdegno, e non le par alcun sia di lei degno. Pur tra quei boschi il ritrovarsi sola le fa pensar di tor costui per guida, che chi nell'acqua sta fin alla gola ben è ostinato se mercè non grida. Se questa occasion or se l'invola, non troverà mai più scorta si fida, che a lunga prova conosciuto in ante s'avea quel re fedel sopra ogni amante. Ma non però disegna dell'affanno che lo distrugge alleggerir chi l'ama e ristorar d'ogni passato danno con quel piacer ch'ogni amator più brama. Ma alcuna finzione, alcuno inganno di tenerlo in speranza ordisce trama, tanto che a quel bisogno se ne serva, poi torni all'uso suo, dura e proterva. E fuor di quel cespuglio oscuro e cieco fa di sé bella ed improvvisa mostra, come di selva o fuor d'ombroso speco Diana in scena o Citerea si mostra, e dice all'apparir: pace sia teco, teco difenda Dio la fama nostra, e non comporti contra ogni ragione ch'abbi di me sì falsa opinione. Non mai con tanto gaudio stupor tanto levò gli occhi al figliuolo alcuna madre, ch'avea per morto sospirato e pianto, poiché senza esso udì tornar le squadre, con quanto gaudio il saracin, con quanto stupor l'alta presenza e le leggiadre maniere, e il vero angelico sembiante improvviso apparirsi vide inante. Pieno di dolce ed amoroso affetto, alla sua donna, alla sua diva corse, che con le braccia al collo il tenne stretto, quel calcatai non avria fatto forse, al patrio regno, al suo natio ricetto, seco avendo costui l'animo torse. Subito in lei s'avviva la speranza di tosto riveder sua ricca stanza. Ella gli rende conto pienamente dal giorno che mandato fu da lei a domandar soccorso in Oriente al re dei Sericani e Nabatei, e come Orlando la guardò sovente da morte, da disnor, da casi rei, e che il fior virginal così avea salvo come se lo portò del materno alvo. Forse era ver, ma non però credibile a chi del senso suo fosse signore, ma parve facilmente a lui possibile che era perduto in via più grave errore. Quel che l'uom vede, amor gli fa invisibile, e l'invisibile fa vedere amore. Questo creduto fu, che il miser suole dar facile credenza a quel che vuole. Se mal si seppe il cavalier d'Anglante piliar per sua sciocchezza il tempo buono, il danno se ne avrà, che da qui inante nol chiamerà fortuna sì gran dono. Tra sé tacito parla sacripante. Ma io per imitarlo già non sono, che lasci tanto ben che m'è concesso e che doler poi m'abbie di me stesso. Corro la fresca e matutina rosa che tardando stagion perder potria. So ben che donna non si può far cosa che più soave e più piacevol sia, ancor che se ne mostri disdegnosa, e talor mesta e flebil se ne stia. Non starò per ripulsa o finto sdegno, ch'io non adombri e incarni il mio disegno. Così dice egli, e mentre s'apparecchia al dolce assalto, un gran rumor che suona dal vicin bosco gli intruona l'orecchia, sì che malgrado l'impresa abbandona, e si pon l'elmo, ch'avea usanza vecchia di portar sempre armata la persona, viene al destrir e gli ripon la briglia, rimonta in sella e la sua lancia piglia. Ecco pel bosco un cavalier venire, il cui sembiante d'uom gagliardo e fiero,